Quando mamma è tatta fatta, quando mamma è tatta fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Per impastasti carne belle, per impastasti carne belle, tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. Cento rose ingappucciate, rinda marta la mischiate. L'altra rosa, rosa latte, le facette un coppo fatte. Non c'è bisogno zingare a pandivi da concè. Come da fatto mamma, da tua faccia meglio te. Non c'è bisogno zingare a pandivi da concè. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servette a stessa dose, non servette a stessa dose. Vuoi sapere che non ci mettete, vuoi sapere che non ci mettete. Ma te dico tutta cosa, ma te dico tutta cosa. E non puoi andare china china, tutte fravole e giardino. Ma le zucchero sta bocca bella, non c'è bisogno di zingare a pandemia a concè. E come l'ha fatto mamma, t'ho saccio meglio te. Non c'è bisogno di zingare a pandemia a concè.